Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo due grandi intellettuali francesi che hanno pubblicato da poco due opere importanti su temi che ci riguardano molto da vicino. Il primo intellettuale è Marc Fumaroli, di cui esce da Adelphi, Parigi, New York e ritorno, Viaggio nelle arti e nelle immagini, 744 pagine, 48 euro, tradotto da Graziella Cillario. Un libro, dicevo, importante, di un grandissimo protagonista della cultura contemporanea, che lancia questo ponte tra la sua città, cioè Parigi, e New York, per compiere un viaggio nell'arte visiva contemporanea. Punto di partenza di questo viaggio è la consapevolezza, acquisita quasi all'improvviso a Parigi nell'attesa di un autobus, del potere pervasivo della pubblicità. Naturalmente non si tratta della pubblicità nobilitata dai disegni di Toulouse-Lautrec, ma la testimonianza dell'avvento di una fase di informazioni brevi, come le chiama Fumaroli, che inflazionano la nostra vita. E scrive l'autore: nella testa vogliosa dei Don Giovanni, maschi e femmine indottrinati e corteggiati, in questo modo è la vertigine. Collage, mischie di rugby, caos di immagini rivali, montagne e montaggi di carte strappate. Jean-Michel Basquiat, morto giovane per un'overdose a New York, sarà stato il plasticatore celebre, ma non il solo, di quel campo di spargimento visivo in cui ciò che resta del consumo promesso dalla pubblicità e non mantenuto dall'industria di serie si deposita continuamente nella nostra memoria pattumiera e ottura la nostra immaginazione. Quindi il ruolo della pubblicità come occupatore della nostra fantasia e del nostro cervello. Di questa inflazione di beni, secondo Fumaroli, è la testimonianza visiva l'immondizia, anzi l'eruzione di immondizia che ha divorato tutto proprio a Napoli. Parla infatti di eruzione di rifiuti di immagini, di oggetti da eliminare e di imballaggi diventati fuori uso non appena usati. E da qui si sviluppa la riflessione sull'arte e sull'immagine, che spazia dalla Villa dei Misteri di Pompei agli ultimi sviluppi dell'arte contemporanea, dall'ozium, insomma, al consumo esasperato, che trova proprio nella pubblicità il suo strumento. E qua Fumaroli fa un riferimento delle immagini che a noi italiani sono molto familiari, e cioè le pubblicità di Benetton. Scrive Fumaroli: queste non si accontentano di creare il proprio sistema della moda, ne fanno la morale. Indebitatevi comprando i nostri abiti, ripetono su tutti i toni i montaggi fotografici di Oliviero Toscani. Voi e i vostri figli vi schiererete contro l'AIDS e militerete per la mescolanza delle razze, pur concedendo fin dalla culla ai vostri marmocchi, il che non guasta, un'aria un po' sexy. E questo naturalmente si riflette poi sull'arte contemporanea, sicché si trasforma in un grande circo Barnum, come dice l'autore, che ha il suo epicentro indiscutibile a New York e fa scuola però in tutto il mondo. E allora Fumaroli lancia il grido d'allarme su Parigi, ma questo potrebbe valere per tutta l'Europa. Fumaroli non vuole essere accusato di nostalgia o di passatismo, ma vuole sostenere questa posizione, dire di no, come scrive, all'insulto e dire di sì a Parigi contro i suoi carnefici. Il buon uso delle pietre di Parigi non è che un'immagine del buon uso della Francia attuale. Palinsesto in cui un antico testo tenace, agli occhi di un lettore attento, riappare al di sotto della confusione banale o chiassosa con la quale è stato troppo spesso coperto da mani distratti, frettolose e ignoranti. E appunto quella di Parigi diventa una lezione. Infatti, conclude l'autore, Parigi insegna un modo di utilizzo per le altre capitali della stessa tempra di cui l'Europa, per fortuna, abbonda. Oggi la funzione di Parigi è insegnare all'Europa quello che è stata e che può ancora essere. Parigi non è proprietà nostra, ma del continente europeo. Insomma, una requisitoria contro la cultura mondo, come Fumaroli, e per la riscoperta appunto del genius loci e della tradizione autentica della grande cultura europea. E sul tema delle immagini segnalo due libri di un altro famoso intellettuale francese, Jean Clerc, che è stato tra l'altro il direttore del Centro Pompidou. Il primo libro si intitola L'inverno della cultura, è pubblicato da Schirà, 112 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Doriana Comerlati. Questo libro è una requisitoria contro la politica culturale, i musei moderni e l'arte contemporanea. Per esempio, parliamo della politica culturale. Naturalmente Claire parla della Francia, ma le sue osservazioni si possono ovviamente generalizzare. E scrive Claire a questo proposito che la politica culturale ha messo la cultura alla mercé dello Stato e il nome di una malintesa democrazia che impedisce di riconoscere o di accettare la grande arte, come la definisce lo stesso autore, questa politica culturale finisce per diffondere un'arte mediocre, un'arte che, scrive Claire, è soltanto un altro divertimento per elite alla ricerca del brivido dei bassifondi. E di questo andazzo sono santuari i moderni musei. I musei che, secondo l'autore, sembrano costituire l'oggetto perfetto di questa fede in una cultura universale, identica dappertutto, pronta a offrire la salvezza a tutti e subito. Essa, questa cultura, rimpiazzerebbe la paziente istruzione che veniva prima impartita soltanto a coloro che rispettavano la lentezza delle sue regole e la diversità delle sue molteplici lingue. Così l'autore, il quale con queste righe vuole appunto sottolineare come l'apprendimento era una cosa lunga e faticosa, adesso invece ci si illude di cogliere qualcosa che in realtà resta assolutamente incomprensibile perché la grande massa dei visitatori dei musei non ha alcuno strumento per comprendere quelle opere d'arte. Espressione infine di questa depravazione è l'arte contemporanea, e qui, per descrivere la natura funzionale esclusivamente a ragioni economiche dell'arte contemporanea, Claire fa un impressionante riferimento alla finanza, impressionante per l'attualità con le vicende di questi mesi. E scrive infatti l'autore: hedge funds e cartolarizzazione hanno offerto un esempio perfetto di ciò che poteva perpetrare la manipolazione finanziaria partendo dal niente. Per cominciare si mischiera il credito di dubbia esazione ad altri crediti un po' più sicuri, esponiamo il vitello di Hiri accanto a un'opera di Boyce, anzi meglio di Robert Morris, sono opere già accreditate con livelli di affidamento AAA o BBB sul mercato valutario, un po' più sicura dei crediti spazzatura. Facciamoli quindi entrare in un circuito di gallerie private di numero limitato, navigate e affermate, che sapranno ripartire i rischi connessi. Questo gruppetto di iniziati sono gli azionari che finanziano il progetto, che sono lì per illuminare, dicono loro, speculatori di sale d'aste o semplici amateur, quelli che si assumono i rischi. Sono, per il mercato dell'arte, l'equivalente delle agenzie di rating finanziario mondiale. Sono coloro che dovrebbero guidare gli investitori, ma che in realtà manipolano i tassi di interesse e favoriscono la speculazione. Insomma, l'arte contemporanea è in preda alla speculazione ed è oggetto di questo circo barnum, secondo l'autore, fatto di galleristi, di critici, di artisti e di gente che ci specula. L'altro libro di Jean Claire è un'intervista che gli ha concesso a Thierry Nodin, esce col titolo Breve storia dell'arte moderna, pubblicato sempre da Schirai, tradotto da sempre da Doriana Comerlati, 36 pagine, 7 euro. Come avete sentito, questo è un libro smilzo, ma significativo delle sue critiche all'arte contemporanea, di cui qui per esempio Claire denuncia il fascino facile esercitato sui politici, che considerano l'arte contemporanea il loro nuovo giocattolo, così scrive l'autore, e si concedono a questo giocattolo, spiega Claire, nella misura in cui una simile propaganda permette di valersi dell'arte e di atteggiarsi a persone di spirito aperto, dunque moderna, risparmiandosi la fatica di mettere a punto un programma di insegnamento. E qui Claire parla addirittura di totalitarismo degli imbecilli alla Boyce, insomma il richiamo all'insegnamento e all'apprendimento contro le scorciatoie dell'illusione dell'arte contemporanea. E forse questo spiega, secondo Claire, l'inflazione di musei d'arte contemporanea, nei quali, conclude l'autore, va in scena un'estetica del disgusto che sembra aver preso il posto di quell'estetica del gusto che aveva dominato l'arte tra il 1750 e il 1970. L'altro intellettuale è Jean d'Ormesson, di cui Barbès pubblica un libro che in Francia ha avuto uno straordinario successo. L'autore è un grande scrittore che è stato anche per molti anni direttore del Figaro, e questo libro si intitola Che cosa strana è il mondo, è tradotto da Tommaso Guerrieri, 292 pagine, 16 euro. Anche il libro a modo suo è strano, e non soltanto il titolo. All'inizio infatti abbiamo una sorta di contrappunto tra un vecchio che fa delle riflessioni e l'autore che ripercorre in una galoppata da un centinaio di pagine lo sviluppo del pensiero filosofico e delle grandi scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato il mondo. Il vecchio, scopriremo ben presto, è Dio. E l'autore, nella seconda parte, che forse è la meno riuscita, va alla ricerca, se non di un senso della vita, con o senza Dio, partendo dalla bellezza e dalla ricchezza della vita stessa. L'autore non vuole convertire, scrive infatti di essere agnostico, di non sapere, gli piacerebbe molto sapere o almeno saperne un po' di più, scrive queste pagine, aggiunge per cercare di vederci un po' più chiaro. Non sa se Dio esiste, ma da sempre lo spera con forza. Di tanto in tanto confessa il dubbio alla meglio sulla speranza e di tanto in tanto la speranza alla meglio sul dubbio. E infine, scrive, l'ambizione di questo libro è di invertire il movimento e dare le sue possibilità a un Dio del quale è altrettanto impossibile provare l'esistenza che la non esistenza. Dare le sue possibilità a Dio e allo stesso tempo dare le sue possibilità all'uomo. Se Dio non esiste, che abbia pietà di noi. Come avete sentito da queste righe, nel libro c'è molta intelligenza, molta brillantezza, un po' di sofisma forse, ma soprattutto una smisurata cultura e tanto entusiasmo che si esprime nel primo e più forte dei quattro sentimenti ai quali Dormesson dà voce nella sua conclusione, e cioè l'ammirazione. Sentiamo per che cosa. Ammirazione per il tempo, la luce, la necessità, il caso. Ammirazione per un ordine di cose così evidentemente immutabile e così evidentemente passeggero. Ammirazione per gli uomini e per il loro genio. Ammirazione per quella bellezza piena di mistero che ha fatto scorrere fiumi di parole e di inchiostro e di cui è quasi impossibile dire alcunché di appena sicuro. Il sole sorge e tramonta. Le stagioni si succedono. Le galassie si muovono con le loro stelle a miliardi. I protoni, i neutroni, gli elettroni, i neutrini, le particelle di ogni sorta e i quark e gli wimp dell'ambigua esistenza girano gli uni intorno agli altri. La storia dell'uomo va avanti, sempre imperturbabile, sempre rinnovata, dal suo inizio fino alla fine. Nascono i bambini, crescono, invecchiano, muoiono, scompaiono. Tutto cambia, tutto rimane simile. Le forme delle nuvole e delle colline, gli alberi nel mattino, i campi di lavanda la sera, qualche verso di Virgilio o di Toulé, qualche misura di Handel o di Schubert, le vesti dei monaci in fuga in un quadro del Carpaccio, o il sogno di Piero della Francesca sotto la tenda in cui dorme l'imperatore, bastano a illuminare il mondo e a travolgerci. E a questo punto... Il confettino. Restiamo in Francia con un'icona di origine italiana, però la Gioconda, che troviamo nel libro di Eric Battu, Il sorriso della Gioconda, tradotto da Alfredo Stoppa per Bohème, 15,50 €. Che cosa indusse Leonardo a dipingere quel quadro che è diventato un mito? Risponde questo libro, nel quale i piccoli fanno conoscenza con un'immagine che li accompagnerà per tutta la vita. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi segnalo adesso un libro che ritorna dopo poco meno di 150 anni, ma che è molto attuale perché sembra anticipare molti furori dell'antipolitica che oggi scuotono la società italiana. Il libro è di Ferdinando Petruccelli della Gattina, che visse tra il 1815 e il 1890, fu un patriota, giornalista, parlamentare, prima al Regno delle Due Sicilie e poi al Regno d'Italia. E il libro si intitola I moribondi di Palazzo Carignano, è pubblicato da Mursia, 156 pagine, 15 euro. È un libro del 1862 che però sembra anticipare molti dei furori dell'antipolitica che sono diventati familiari in questi mesi. E nel 1862 appunto pubblica questo libro nel quale si rievoca la prima legislatura del regno offrendo dei ritratti sapidi e veritieri dei suoi colleghi, cominciando con un dialogo in treno nel quale davvero sembra di anticipare molti toni di oggi. Una signora infatti incontra un deputato il quale si lamenta e dice: «Io non auguro ad un cane di canonico le piccole grandi miserie della vita di un deputato». E qui la signora diventa una furia e rinfaccia al deputato tutti i privilegi di cui gode, esattamente come succede oggi. Sentite cosa dice questa signora. «Ma quali dunque, Dio mio, quali dunque? Voi andate ai balli di corte, voi andate alle ricezioni del barone Ricasoli, voi partecipate a taluni pranzi diplomatici, a certi banchetti nelle grandi occasioni. Voi siete invitati a tutte le feste. Voi viaggiate gratuitamente. Voi non pagate spese di posta. La vostra medaglia in oro è un passapertutto, generalmente rispettato. Voi non potete essere giudicati per tutto il tempo che dura la sessione. Voi potete fare dei debiti. Si fa credito a un deputato. Il telegrafo trasporta il vostro nome in tutti gli angoli del globo, ove stampisi un giornale. Voi avete un palazzo principesco per andarvi a leggere i giornali, parlare, fumare. Senza parlare dell'acqua zuccherata a discrezione e durante le sedute ben anco dei liquori. Voi siete ben riscaldati. Voi avete una biblioteca. Le ballerine del Teatro Regio sono ghiotte di deputati, perché avete la reputazione di gente ricca e non taccagna. Vi domandano a fare il vostro ritratto per nulla. I giornali non parlano che di voi, come del fiore della nazione. Anche la caricatura vi tratta con riguardi. Siete indicati a dito quando passate per le strade. Voi troneggiate nel vostro circondario elettorale. Vi si danno dei banchetti, trascinano a braccio la vostra vettura, vi fanno dei toast. Voi potete perfino accomodarvi un ricco matrimonio, facendo valere la possibilità d'essere un giorno ministro o di godere il favore di un ministro. In una parola, voi siete una potenza, una forza, un favorito, una gloria. Molte altre abitudini di allora sembrano comune ai parlamentari di oggi, scrive infatti l'autore, che noi abbiamo, come in tutti i parlamenti, la distinzione di destra, di centro, di sinistra. Lui stesso apparteneva alla sinistra, aggiungo io. Ma questa distinzione, scrive lui, non è assoluta. Vi sono parecchi deputati che seguono la sinistra e votano costantemente con la destra, altri che, anche sedendo alla destra, votano talvolta con la sinistra. Verdi, per esempio, e Gallenga. Poi vi sono le farfalline. Lui stesso, che appunto è di sinistra, apprezza Cavour, di cui ammira la potenza del genio, e gli dedica delle parole lusinghiero che lo stesso autore confessa aver provocato le critiche dei suoi colleghi della propria parte politica. Un'ottima occasione per conoscere la Camera dei Deputati è una mostra che è in corso a Roma, Montecitorio, sarà aperta fino al 10 dicembre e poi si sposterà a Ravenna, rappresentare l'Italia, 150 anni di storia della Camera dei Deputati. La mostra presenta documenti, testi e video che ripercorrono la storia e la trasformazione della Camera, appunto, che diventa lo specchio della storia nazionale. La mostra è accompagnata da un libro in distribuzione gratuita per gli insegnanti e liberamente scaricabile sul sito della Fondazione Camera dei Deputati, presieduta da Fausto Bertinotti, che le ha realizzata. E al direttore generale della Fondazione, Alessandro Massai, rivolgiamo alcune domande su questa mostra. Buongiorno ad Alessandro Massai. Buongiorno, direttore. Alessandro Massai, allora, qual è l'obiettivo di questa mostra che la Fondazione Camera dei Deputati ha voluto organizzare a Palazzo di Montecitorio? L'obiettivo vero è quello di mettere a disposizione l'istituzione e la sua storia, e a disposizione di tutti i cittadini che possono vederla al di là delle rappresentazioni cinematografiche, filmiche e dei talk show. Entrate dentro l'istituzione. Ecco, lei ha parlato adesso, appunto, ha fatto un accenno all'aspetto cinematografico, infatti molte immagini della mostra si riferiscono anche a film. Che ruolo ha avuto il cinema nell'immaginario collettivo relativo appunto alle istituzioni e alla Camera in particolare? Un ruolo enorme, sin dall'inizio della storia del cinema, che è riportata nei nostri schermi, nei nostri monitor, eccetera, e sia in senso positivo nel rappresentare ad esempio i grandi episodi tristi della storia di Montecitorio, Moro, Borsellino, La Torre, eccetera, sia anche nel dar vita a quella specie, quella sorta di antiparlamentarismo di un cinema che ha molto spesso messo in risalto gli aspetti meno nobili dell'attività parlamentare e dei singoli occupanti il Parlamento. Ecco, allora da questa mostra si può dire che il cittadino trovi qualche sorpresa? Diciamo che la sorpresa più grande sono le lettere che ci arrivano dai cittadini che l'hanno visitata e che dicono: non pensavamo che ci potesse essere anche questo. Dallo svolgimento della mostra, come ritiene di poter definire il cambiamento della vita parlamentare? Come è cambiato il Parlamento da 150 anni fa a oggi? È cambiato avvicinandosi sempre di più alla popolazione, alle persone, anche con l'ampliamento del suffragio delle persone ammesse al voto. Diciamo che in questi ultimi 15-20 anni è molto cambiato, perché il rapporto dei votanti con il Parlamento è stato più mediato dai sistemi di comunicazione di massa, televisivi in primo piano, che non dalla vita organizzata dei partiti. E allora, in questo senso, il cambiamento del modo in cui si fa informazione, secondo lei, porterà un aggiornamento della mostra fra 15-20 anni? Potrebbe darsi, forse, se riuscissimo ad arrivare a celebrare i 200 anni di Montecitorio, io non sarò più qui ovviamente, potrebbe esserci uno sviluppo di questa cosa. Io spero che questa mostra possa diventare la base per un futuro museo del Parlamento. Che avrebbe sede a Montecitorio. Potrebbe avere sede a Montecitorio, dove non ci sono locali, potremmo trovargli una sede qui a Roma comunque, magari al Vittoriano, se il Presidente della Repubblica volesse intervenire, perché in fondo è l'istituzione che rappresenta tutti i cittadini. Ecco, l'ultima domanda è su questo. Secondo lei è davvero allora il Parlamento lo specchio della nazione, anche dal punto di vista sociale, culturale? Certamente lo è molto di più quanto la legge elettorale assicuri il massimo della rappresentatività, virgolette, proporzionale. Quando le leggi elettorali si modificano e cambiano e danno una diversa selezione, indubbiamente la rappresentatività della popolazione può essere inferiore o minore. Bene, grazie ad Alessandro Massai. Grazie a lei, direttore. Buona domenica. E in questa occasione segnalo il volume pubblicato da Linari 24 Ore, la casa editrice che è posseduta dal gruppo editoriale di questa radio, La Camera dei Deputati a Montecitorio, storia fotografica, 180 pagine. Questo volume raccoglie una serie di immagini sulla storia e i protagonisti della Camera, accompagnati da due saggi, di uno storico, Piero Melograni, e di uno storico della fotografia, Gabriele D'Autiglia, che collocano quelle immagini in un contesto storico densissimo di avvenimenti che si è puntualmente poi riflesso, come nota Melograni, nel rapporto stesso del Parlamento con il Paese. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.